casa, hay el bulto de una anciana que senza pudores se alzata la sotana. Vorrebbe camminare con le proprie gambe, ma storie come questa ce n'è davvero tante. Chiudo gli occhi e li riapro. C'è sempre un filo di speranza che poi la si traduce come tu la vuoi. Tu che cammini su una strada di fango, non preoccuparti che con te rimango per coprirti e per cantare. C'è sempre un filo di speranza che poi la si traduce come tu la vuoi. Tu che cammini su una strada.